massimo 50, ma 50 è fin troppo. Allora mi sono trovato sul pullman, ho dovuto fare a marcia indietro, poi in fila, perché ogni tanto si vede che hanno fatto, diciamo, dei piccoli rientri sotto la montagna, ma niente, ma avrò fatto minimo 10 minuti a marcia indietro per poterlo far passare. E ti è andata bene, perché tu immaginati che quei pullman che ci sono lì, li hai visti, no? Come sono fatti, molti per poter tornare indietro tornano a retromarcia, oppure girano in quella piazzola che c'è sopra che praticamente costeggia il lago, capito, che è l'unica piazzola che c'è. Secondo me lì c'è almeno un 40-45 gradi di pendenza, ci sono certe salite già, la paura, cioè io invece dici uno anche in bicicletta a scendere dopo, deve essere molto attento, ma anche con la macchina deve essere molto attento, perché quando arrivi sopra, hai visto come ti fa la macchina o sa, sembra che ti si stia sollevando il culo della macchina, della pendenza che c'è tra la strada e la piazzuola. Già lo so, ma infatti mi sono trovato un po' un attimino così in bilico, lo sai, quando non le fai mai non sei abituato a queste strade, ma tu considera che tutta quella salita che sarà all'incirca un paio di chilometri, me l'ho fatta tutta in seconda, vabbè che non ero un gran carico, però insomma, in seconda, perché me lo sentivo sotto che provavo a metterci la terza, però nulla, se ne scendeva la macchina, in seconda. Sì, ho paura veramente, vabbè, comunque sono bei posti che è bello visitare, soprattutto così quando ci vai per lavoro, sono molto belli. Io sono stato invitato, appunto c'era una manifestazione amatoriale, siamo andati, eravamo 5-6 due anni fa, ed è veramente molto bello lì, molto bello. Se non riuscivo a dirti questo paesino, insomma, non ho mai capito questo cammino, è veramente un bel paese, e dunque, vabbè, c'è un altro paesino vicino, adesso guardo la cartina, non mi ricordo, Carmino Vero, poi c'è un altro paesino, proprio un pochino più in discesa, non mi ricordo come si chiama, che è piccolissimo anche quello, poche case, ed è molto bello. Ma già, tu vedi cosa si mangia anche su lungo, allucinante, fanno paura. Cosa si mangia? Roba genuina, Claudio, roba genuina. Figurati che lì la carne senti proprio il sapore vero e proprio della carne, va bene, mai la vegetazione. Allora tu stai dicendo quel paesino, adesso salendo prima di arrivare a Carmi, trovi Quenza, quello lì è. Non so se si chiama così, ma è poche case, proprio piccolino. Esattamente sì, alla sinistra salendo per Calvino. Salendo, ma è questa, è. Lo trovi lì, ma è piccole casettine, vabbè che trovi piccoli borghi, diciamo, trovi magari 20-30 case, non di più. 50 case è già, diciamo, già un paesino, ma lì sono così. Di solito sul lungo strada prima del paesino trovi un piccolo cimitero, insomma tutte queste cose qua. Cioè ti sembra di essere in un altro mondo, capito? In un altro mondo. Vabbè, sarebbe da visitare. Dai, io ne approfitto, stavo spartolando un attimino, che ho messo su un attimino per far riscaldare un attimino questa roba, se no siamo fisce. Vi saluto perché ancora non ho fatto carica. Vi lascio, buon proseguo di serata, alle prossime e ci risentiamo, le prediciamo. Ciao Alessà, buona carica quando la fai, noi siamo qua, se vuoi rientrare non c'è problema, avanti qua. Ciao Sa, mi è ancora qua, non è pronto. Buona carica, buon tutto e saluti cordiali anche a casa. Tutti, okay. Ci sentiamo. Va bene, bei posti, sì, ma sono in 20-30 gradi, anche se sono belline, ben costruite. più, non vogliono gente di fuori loro, e sono così. In Corsica non vogliono ditte di fuori, vogliono che lavorino i corsicani, non accettano altre persone. Tu pensa che io con questo amico che stava lavorando con una ditta, lui fa, non fa il manovale, fa il maestro proprio, carpentiere in ferro, però è maestro, e lo pagano anche molto bene, sulle 150 euro al giorno li dà. Fatto sta che è andato con questa ditta, con questa impresa, e stavano costruendo un palazzo, era quasi finito, e l'impresario gli ha detto se poteva stare a fare il custode. Lui ha detto tanto io invece pagare l'affitto della casa me ne stavo lì a dormire. Sì sì, va bene, non c'è problema. E ha fatto anche il custode oltre che fare lavoro giornaliero. E gli si è presentato questo tipo che aveva trovato al bar, avevano bevuto insieme una cosa, e gli ha detto ascolta, io ti voglio avvisare, stanotte qua a dormire non starci. Ma perché? Non ti preoccupare, ma io ti sto avvisando, non ci stare. Beh, la notte lui ha trovato degli amici, cosa, se ne sono andati al bar, a un certo punto è tenuto un socco, boom, mi ha fatto brincare un barazzo, perché c'era una ditta di sassi. Sì, confermo, perché così sono molto gelosi di quello che appunto è il lavoro, però ti posso dire che lì in Corsica io ho degli amici che hanno praticamente una scuola di intonacchini di Ulvi, stanno lavorando già da tanti anni, sono molto molto tenuti in considerazione lì, noi come andiamo che la facciamo il nostro lavoro, non disturbiamo nessuno, la sera quando abbiamo finito di lavorare ce ne stiamo tranquilli e sereni a casa, senza stare in giro, senza avere fastidio a nessuno, perché più in giro ti vedono e più pensano che magari sei lì per creare problemi, capito, la gente del paese, e allora ti attaccano, e allora invece. E quindi loro fanno il loro lavoro tranquillamente e sono anche ben voluti, capito? Però se non ti buoni di lì, come hai detto tu, è meglio che te ne vai, perché ti fanno la pelle, e così cani sono cattivi. Bombaroli e Cucchetti che non hanno imbusciata. Dice che si prendono le baguette, se le mettono sotto la braccia senza rivolgere, senza nulla. Chi fuga, babba via. Luigi mi stava dicendo che una volta è andato lì, hanno dovuto fare la notte lì e dormire in camion perché l'indomani mattina c'erano lo scarico. Si è messo vicino lì dove c'era uno spiazzo al sicuro e ha detto che la mattina si è svegliato, che si vedeva tutti gli operai con la baguette sotto al braccio senza rivolgere. Delle immagini, dice scusi, come aveva un pezzo di baguette? Sì, rubero senza bello. Che schifo, tutti sudati e cose, beh, comunque, diciamo che lì non li usano di carta, non li involgono, te le danno in mano così. Ma adesso c'è la comunità europea, non lo so se glielo facciamo ancora fare, perché con la HCCP non vedo buffonata. No, ma non credo comunque che lo permettano di fare cose del genere, non lo so già, però ti posso dire che sono abbastanza pulito, sono stato, abbiamo dormito in questo hotel, ci hanno servito riferito, siamo stati bene, siamo stati tre giorni, ed è molto bello, molto bello. Mangiare era squisito, pulizia ce n'era in abbondanza. questa amica che è andata me l'ha descritta bene lo stesso, la cruscetta, a parte le strade, poi tutto il resto è un paradiso. Io ci avrei fatto sembra una strada di campagna, davvero. No, non è vedi strade larghe, c'è qualche strada larga, sì, però devi scendere molto giù. Tutte quelle per salire sono strade piccole, tribune. Sto dicendo io sono stato a girare tutte le settimane, andavo due volte alla settimana. Le strade sono come quelle, così, più o meno così. Due macchine, per passare due macchine devi stare molto attento. Se tu incroci il pullman o hai il braccio, devi fare retromarcia, stando attento a non attivare il adrenaline in chivi. È un casino. E non c'è un posto per accostarti, niente. Ah, qualche piazzola c'è, ma no, non come le nostre. Dicendo, sono proprio lì dove va tossando, che lui c'era un po' più al pascolo bravo, capito? Gli animali camminano la strada, non è che... Mi ricordo molto vaginale quel posto, veramente. Per come è fatto, come è messo, capito? Sono molti viali alberati, tu passi sotto, non mi sembra in macchina, però molto bello, anche se è bello, mi ci piace, non è altro, insomma, lì è vero. Guarda, io penso che da lì su con un bel binocolo vedi di tutto e di più, ma di quei cannocchiali proprio a lunga distanza, professionali, quelli che mettevano, a parte che c'è un posto dove si c'è una piazzola soffrenata, dove c'è quei cannocchiali tricoli che mettevamo i soldi per vedere, non mi ricordo se c'era Balai o non lo so, te lo ricordi? Alla rotonda, Platamona. Bravo, la rotonda è Platamona, una fiera del genere, c'è una fiera del genere molto grande, dove la gente non si mette i soldi, è gratuito, lì, dove la gente va per vedere tutta la costa, tutte le... molto, molto bello. C'è anche a Sirmione, quando sono andato a Sirmione, al lago di Garda, lì c'è il lago sotto e sopra ci sono questi cannoni in uno spiazzo dove tu metti i soldi e puoi guardare. Ma no, lì soldi no, non ce n'è, lì è pubblico, credo che sia roba che ha messo la comunità europea addirittura, perché c'è il marchio della comunità europea con tutte le stelle. È sicuramente qualcosa per attirare i turisti, sicuramente qualcosa del genere. Per vedere la panoramica, diciamo, del posto, c'è chi fa pagare, cerca di sfruttare tutti quanti. Adesso questi tachigrafi che hanno messo e cose. Prima ti ricordi che Lombardo che c'erano, che ci mettevano i soldi e facevano che poi diceva il biglietto. E adesso quelli li hanno tutti, perché altri scassinati ne hanno messo uno che praticamente se tu la macchina gli tocca fare 3 km per andare a pagare il parcheggio, ma dimmi tu. Quindi io lo so, sì, non mi è capitato, infatti non ci voglio andare, non sono tornato, c'era la multa, praticamente era qualcosa in più, se mi ricordo se erano 50 centesimi o in più. Sono andato al comando, ma non me ne accade, sono passato oggi in barra del comando. Infatti in barra ci arrivo a 3 km per andare a pagare un ticket, ma stiamo scherzando. Entro le macchinette le metti, cosa c'è? Il parcheggio di via Roma, la ne metti uno all'inizio di via Roma, uno lo metti a metà che via Roma è lunga, ok, e l'altro te lo metti in punta di Casino, però almeno due devono essere in mezzo alla via, perché è molto lunga, non è che se io parcheggio la faccio a Tribunale devo andare a pagare su via Roma dove c'è il coso, come si chiama, questo è un telefono, ma non è il mio, capito? Quindi è una vergogna, questo grazie al comune di Sassari, alla gestione che sta dando, anche quella gestione spagnola, però poi ce la mettono il culo questi spagnoli. Il telefono, sai già che sono al telefono un secondo. Io ci ho capito. E comincia. Stavo premendo il microfono da tavolo. Sì, ho visto una portante prova, fratello. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Non sento più nessuno. Va bene, dai, io vado a cenare, che è arrivata l'aria. Se non vuole sentiamo Roger. Se no, le prossimine. Ok. Marco ci sentivamo più tardi, ma si doveva essere dormito e non si è sentito più. Dopo vado a cenare, se coincide a dopo già, altrimenti a domani capo a casa. Capo là, ci sentiamo Claudio, allora dai, buona carica quando la fai e buonanotte. Via. Ciao Claudio, buonanotte. Ah, ecco che già è arrivato, ciao Marco, via. Vado a cenare, dai, che mi tocca. Ci sentiamo, se ne vuole a dopo siete qua, altrimenti alle prossime, vai Marco. K, va bene, di nuovo buona cena. Ciao Gianni, ho acceso adesso, o meglio no, era acceso da prima, ma ho girato un po' i canali adesso, ho trovato voi qua. Riprendi Gianni. Ciao, no, o io ceno alle 11, lo sai. Sono da cenare. Io? No. Capito già. Cosa? Io ceno alle 11. Ah sì, lo so. Ho lasciato acceso, diciamo che l'ho riacceso verso le 8 perché il cielo mi stava mettendo male. Avevo paura che scendessero fulmini, capito? Allora ho staccato l'antenna, non mi fidano, cazzo, se perdo questa di radio sono finito. Sento un notevole disturbo elettrico sul fondo qua, diciamo che non ha segnale ma è forte di audio. Vabbè, sonno c'è, vai, non c'è nessuno. Invece di tu. Ecco, non c'è un caffè. passivo, perché è una condominata, quindi l'accesso la vado faccio giù, quindi ho lasciato solo una, ho fatto la direttiva, c'è un po' di traffico. Vabbè, lì c'è la direttiva, tutto la finisco. Però c'è un sacco di traffico tedeschi, Castel Ventura, e poi Castel 14, tutti tedeschi, mi ci riavera. Io lo so, no, io ero in 10 mesi. Ero in 10 mesi. Neanche io ho le direttive adesso. C'ho le direttive, un'altra volontaria, sta aspettando si liberi Marco. Si sta traslocando l'ufficio, appena si libera, se andiamo quella di 6, e lo montiamo sopra il traliceto nuovo che stiamo piazzando. E poi ho finito. Se tu vuoi fare cose non ci puoi, tu sai che c'è abbastanza una tutta una stana ai grandi, ma grandi come potenzialità di radio, che magari da lì puoi schiacciare sicuramente, in molte posizioni. Sicuramente se poi se i grimani ci parlano, devi lavorare per la radio, non basta neanche. Ah no, ragazzi, ne ho preso solo una, 7.400, basta così, ne ho 4 KF, già vanno bene, e in 10 metri già ne prendono di colpi, soprattutto adesso che ho montato l'altra antenna, ne prende metri, no, piano piano, ma non mi interessa a me fare né guerra né competizione, per quanto che a me mi sentano, quando chiamo, poi a me di quello fanno gli altri. Se lo sai, io il tuo motto, io no, l'importante è arrivare e tutto il resto, non è di una gran parte, a me va bene così, adesso monto la trantena con le 6 metri, così è pronta per fare due chiacchiere anche lì, 10, 15 e 20 e 40 sono tranquillissimo, non ho nessun problema, ma sto montando una traiaggi, tre alimenti, fa 15, 20 e 40, e poi vediamo cosa succede. Tu c'è una posizione ottima, passerebbe il palato, poi la zona più alta la vicinale, capito? E sicuramente in molte direzioni schiacciano a molte persone, anche quelli super dotati di antenne, di calice, eccetera, sicuramente. Capito, però come tu se puoi fare una cosa più megalomana, fatto una sensazione su internet di 300.000 euro, non capisco che vuoi capo, già ti vanno con 4 clarici in giardino, antenna, mobana, quindi fatto vuoi capo, però è già per la mattina dalla parte, come hai detto tu. Gran parte, infatti, io se giochiamo a qualità di potenza più di uno prende colpi forti, solo che sono tutti questi cazzo di amplificatori da 5 kW, da 3 kW, io in 10 metri ne uso uno da 1 kW, ma ne da 600, 700 watt, e mi accontento, mentre le altre bande no, non le uso neanche. Soprattutto adesso che sto mettendo a posto tutto, però mi sono affidato a gente competente, Andrea mi sta finendo il varicello per tirare su, dove c'aveva un varicetto che aveva preso un altro elevatore malato, la direttiva lo stesso, e quindi ho preso tutto la bosata a Fabrizio. E di tornare a una gran parte, l'importante è che funzioni e che mi diverta, perché per me è stato sempre un divertimento, soprattutto nelle bande amatoriali, qua si scacchia, si fa, si ride e si scherza, ma lì non è una cosa più seria, quindi bisogna fare cose fatte bene. Ma sicuramente sento la parte un bel dinamico, capito? Con pochi spiccioli ho realizzato qualcosa di buono. Ho conosciuto io un paio anni fa in Germania, questo perfetto, un radioattore, esattamente adesso non mi ricordo la città, il Bruno, proprio vicino al lago di Como. Allora questo qua parlava così e tu ho trovato anche sul suo sito. Questo, ma questo è un regolatore di 40 anni, non ci più tu, questo qua fanno mettere la radio, che c'è a me la persona che c'è a ridere. Ma così è vero, si può mettere a ridere Fabrizio, è una radio che c'è più di 30 anni qua. C'è a me, ma utilizzava lui il 747, qua io ce l'ho. Cioè, per esempio, il 747 e il 757 G2. Io per 747, ragazzi, poi ma quello va del, e poi c'è a me, ma c'è già meno 5 tralicci con le direttive, ma tu guarda che ci sono donatori che spendono 200-300 milioni di radio da 20.000 euro, però qui non c'è un'antenna, oppure non c'è un pezzo di niente. La prima soddisfazione è fare quello che fanno loro, i loro collegamenti con questa radio, con 100 watt. Loro ti dicono che sono 100 watt, invece magari sono 2-3 kilowatt. Io ho fatto girato il mondo, lungo e largo, con questa radio qua, questa è una soddisfazione. E ho speso tanti soldi sulle antenne. Dopo ti c'hai antenna a radio a 20.000 euro, c'è antenne che non è un cazzo. Infatti, il problema è quello, capito? Ci vuole le antenne. Io ho tanti anni mi sono deciso, me lo sto pensando piano piano, una a una, risparmiando e facendo, però penso di divertirmi un pochino, penso di divertirmi, già mi diverto così, penso quando termino i lavori mi diverto ancora di più, senza rompere le palle a nessuno, io vado per la mia strada, gli altri lo vanno per la loro, non li uso, io non spendo soldi corrente. L'unico amplificatore che ho in 10 metri, che è diretto perché c'è la monobanda per i 10 metri, c'è una 3D metriaci per i 10, con l'amplificatore lì, mi inverto e schicchio forte. Quindi gli altri bande già sono 200 watt, capite? Mi sono preso da poco, da 850, mi sono preso il 950 da 200 watt, quello sempre della Kenwood, e va bene così. Poi, non mi ha fatto nulla, detto che facciano e dissino e complino e facciano un cattore per 10, ma stesso a me. Lo so, tutto questo è un attore, ma te l'ha detto, ma io non so perché non posso parlare di questa radio cazzo, è fettino, è verde, fettino, non c'è un cazzo. Però per dire, sono molto appassionato di radio antiche, valvolare, infatti avevo diverse radio, però io ho chiesto sempre questa qua. E ti posso dire che ho schicchiato gente che già da 5-6 kW in direttiva la paura. Io la qua, l'ho capito, ero io, ho girato il mondo con questa radio da 2 euro, capito? A me non me ne posso per dire, la sensazione è più bella quella, che fai collegamenti come loro in tutto il mondo con una radio che da 2 euro, con 100 watt soprattutto, non 5-6-10 kW, cioè sono, capito, micidiale. Ma così, tu se ti metti a prezzo qua, ti sto dicendo, sono 300.000 euro di radio. Sì, non serve a niente, capito? Una volta c'hai una buona posizione, c'hai una direttiva a 3 metri che fa 10, 15, 20, è un bel tipolo per i 40, devo uscire vivo, per me, perlomeno io sono arrivato, ma c'è anche una monobanda per le VHF, non ho elementi, adesso devo mettere una 17 elementi per le U, e poi basta, cioè così ti ne da niente, capito, te ne hai 50 euro, 200 euro, tutto usato, non me ne ha fatti nulla, non me ne ha fatti nulla, però già mi diverto lo stesso, da così mi diverto lo stesso, e prova sia che ho 100, quasi 190 country fatti, di cui 100 confermati, contatto di carta con sede, perciò non mi posso lamentare. Nel mio piccolo vado avanti, poi ti ripeto, gli altri sono di fare quello che vuole. No, la radio mi piace moltissimo. Allora, ho un collega animatore, e l'altra volta 50 più la differenza. Quindi sono preso il 950 SDX, sempre della Kimball. Va molto molto bene, a me mi piacciono le radio, quindi ho preso quella. E poi vabbè, c'ho 7004, c'ho altre radio, e va bene, mi prendo di mano, e va bene così, fa bene. Sì, però poi alla fine hai messo una vetrina, non è tantissima, è solo una vetrina, capito? C'hai soldi, compri radio, e ti vedi la tua sta, però alla fine... Ma tu, sono arruinabile, invece sono effetto radio, le frequenze giuste, le antenne soprattutto. E quindi che sono una cosa meravigliosa, cioè i soldi sono figo qua, se io la conosce la strada la metto lì, proprio come fanno molti, tutto la sua, c'è questo radio lì, e magari non c'è neanche l'usa. Cosa ne fai? Io se ti metto qua una cassa non l'ho mai usata, ce l'ho per i 50 mega, adesso le inserisco la direttiva anche lì, in VHF 100 watt, capito? Per cui 780 in VHF, sempre in base, tutti in base, veicolare non ne ho, il 271 per 144 con la direttiva VHF, quindi sono tutte separate. E boh, questo è il solito baracco per fare due chiacchiere in 27, in 430, magari ne appunti, va benissimo, va alla grande, mi diverto e lascio divertire, l'importante è quando chiamo mi sentono, poi aperto me ne appunti di cifra generale, fa bene. Cosa? Cazzo, il cazzo l'ha chiamata ancora questo tuo? Amico mio... Ma quello del Mac? Come? Quello del McDonald's? Ehi, hey, cazzo, l'ho fatto incazzare la settimana scorsa. Era un mio amico, abbiamo una cosa. E lui sì, praticamente, cazzo, tutto... Il mare aveva una marea di basura. Lui aveva avuto, cazzo, una cinquantina, tutta accattata, di sto romano. L'altro era appoggiato sul tavolino che ci dice al muro. Io faccio scherzando, faccio fammi, faccio di trovare tanto voglio lavorare, ma perché non prendo la scopa e pulisce la sala, cazzo, mai l'avessi detto. Perché le dai, mi hai anche dato giorno, ma fa culo, dai, forse mi metto le dai, che mamma mia, sta scoppiando lì dentro, e ma prima o poi vedrai che glielo stacco il collo, glielo faccio mangiare. Appunto, fra, mai avessi detto, guardi che io questi lavori non li faccio, io lavoro solo col cervello, così mi ha detto, però è la cagata, si è permesso. E cosa vuol dire che faccio la scoppia è una cosa disprezzante, ah? Eh? Devi ringraziare suo padre, se avrebbe fatto affare. Infatti, e lei prima o poi le dà un calcio in culo al padre, se non fa paura, anche un anno, magari se lavora col cervello, è un anno, non siamo a leggere né scrivere, non manco a parlare, sa, figurati, è per i dei, chi è elemento questo, è proprio vero, chi troppo, chi niente. E cazzo era, c'era lui, io sarà, te, e mi ha fatto, mi raccomando, non faccia questo, non faccia, non faccia le televisioni della tua volta, ma tu ci fa ancora pensare, va a cazzare. Io fermerò, io stavo scherzando, per cui, se lui ogni tanto faccia la scoppa nella sala, non c'è niente, non è che cazzo, non è che te la vibrava. Che idea che sta, bambino. Non mi dare ogni tanto si attaccano, ma me lo lascio parlare, ma lo credo. Gira le spalle, guardi che sto parlando con lei, sì, va bene, arrivederci, pescinato, ora sei veramente un imbecille. Vuol dire, come il padre, ha la mania di, come ti posso dire, di, non di attaccare, sì, però cerca tutte le fesserie, i movimenti che fanno, magari tu movimenti che dice, no, guarda, lo aspetti così, capito, quello che sta sempre in mezzo a rompere il coglione. Capito, io il padre, tutto quello là, un giorno gli ho fatto il padre, capo, c'è il padre perché non c'è molto una cosa, e ti manco usava 30 anni fa nel mio circolo se sei vecchio. E lo devono rifare adesso, credo dopo Natale, i primi dell'anno, tengono chiuso non so quanto e devono fare tutto nuovo con tutti i marchi McDonald's, capito? Tutto nuovo. Infatti ho già avvisato il personale che saranno praticamente in credo un mese, due mesi, non lo so, in cassa integrazione, capito? Ma così è, che cazzo, due mesi, cioè due mesi a fare quel buco lì? Non so, un mese, due, così mi ha tirato. Lui mi ha detto, guarda, lei non ci preoccupa perché già ce n'è da fare anche se siamo chiusi. Quindi sicuramente due o tre gli fa la parola lo stesso, a mettere a posto, a spostare la roba, capito? E lei ha detto, sì. Non mi chiami neanche a me che mi mette malattia, ha detto. Ciao, Fabio.